GR Sport. Buongiorno a tutti da Carlo Genta. Nona giornata di Serie A di notte e restano in fuga solo Udinese e Napoli, perché l'Inter pareggia 0-0 a Firenze e il Milan salta i nerazzurri mettendosi a caccia del primato. Servizio. C'è una coppia inedita in testa alla classifica. Napoli e Udinese giocano bene e vincono. Tripletta di Denis contro la Regina, Sanchez e Quagliarella per l'Udinese, Corsara a Catania. Sono loro il volto felice della Serie A. Alle spalle sbuffa ma conquista 3 punti il Milan, che dopo 3 anni supera in classifica l'Inter, fermata a Firenze dal secondo 0-0 consecutivo e non più prima, non succedeva da 2 anni. In 4 punti ci sono 7 squadre, sta risalendo la Juventus a 2-1 a Bologna, torna a vincere la Lazio, si conferma il Genoa. In coda dei tecnici traballanti si rialza solo De Biasi, 2-1 il suo Torino contro l'Atalanta, 6ª sconfitta su 9 partite invece per la Regina. Rinviato infine il riscatto della Roma, 6 minuti in campo contro la Samp, poi la pioggia manda tutti a casa. Ci si rivede nelle prossime settimane. Giovanni Capuano, GR24, il Sole 24 ore. Napoli che sogna allora insieme ad Udine, ma già domenica sera nel posticipo il calendario ha disegnato una partitissima. C'è infatti Milan-Napoli, allora noi sentiamo Eddie Rea. Secondo me devono avere paura tutti del Napoli, perché come ci stiamo esprimendo in questo momento, stiamo bene fisicamente, auguriamoci di mantenere questa condizione il più lungo possibile. Sappiamo bene che a Milano è durissima, è difficile fare i punti, però la squadra ha la consapevolezza che può andare a giocarsi le partite un po' dappertutto. È chiaro, il Milan davanti c'ha dei giocatori straordinari. Se riusciremo ad arginare l'attacco del Milan, è chiaro che da metà campo in avanti abbiamo anche noi delle qualità per poter metterlo in difficoltà. Ma visto che siamo in argomento, passiamo anche dal Milan, perché la vittoria sul Siena è stata sofferta, come ormai d'abitudine, ma per i rossoneri la 3ª consecutiva con sorpasso stracittadino. Carlo Ancelotti. Il fatto di essere davanti all'Inter non è che ci deve, a me personalmente mi dà soddisfazione il fatto che la squadra sta facendo risultati importanti, che è venuta fuori da un momento difficile e che ha la possibilità, battendo il Napoli domenica, di fare un ulteriore passo in avanti. L'altra faccia del mercoledì è appunto l'Inter, che perde il primato praticamente dopo 2 anni sempre al comando. Settimana difficile quella di José Mourinho, al quale però lo scudetto di ottobre interessa poco. Sentiamolo. No, se c'è una coppa per il campione di ottobre, noi abbiamo perso questa coppa. Se c'è solamente una coppa per chi vince il scudetto a maggio, noi abbiamo delle grandi possibilità. Non dico che saremo campioni, ovviamente, perché non sono magico e non posso dire questo, ma dico che ho fiducia nella mia squadra, nel nostro lavoro. E statistica per me non è importante, statistica vale lo che vale, non ha per me un significato molto, molto speciale. Lasciamo il calcio per chiudere con il basket, perché è anche tempo di Eurolega, anche se il mercoledì rende ancora più profonda la crisi di Milano. L'Armani, per la verità con molti assenti, perde anche la 2ª gara europea, stavolta in casa, 81-71 con l'Efes Pilsen Istanbul. Stasera Siena a Kaunas, Avellino a Tel Aviv con il Maccabi e Roma che riceve la Juventud Badalona. È tutto per GR Sport di questa mattina, di nuovo buona giornata.